Siamo con Stefano Finesi di Teodora Film per parlare della distribuzione di Thelma, film di Joachim Trier, in sala dal 21 giugno. Stefano, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti. Raccontiamolo brevemente. Allora, il film esce giovedì ed è un film un po' atipico per Teodora perché, diciamo, sulla carta è un horror d'autore che però nasconde tante chiavi di lettura molto interessanti. La storia è quella di Thelma, una giovane ragazza di provincia norvegese che va a studiare a Oslo all'università. Lei viene da una famiglia molto religiosa, per cui si trova un po' spiazzata all'inizio e poi conosce Anya, un'altra studentessa, e nasce un'amicizia e poi anche qualcosa di più. In quel momento però, in questo che alla fine è una specie di passaggio all'età adulta, si scatena in Thelma una serie di strani poteri paranormali, inquietanti e incontrollabili. E da lì poi riemerge anche un terribile segreto del suo passato. Quindi alla fine questo film è un film bellissimo e difficile da descrivere, come se fosse una storia di emancipazione femminile, però raccontata come una favola horror, ecco. Ed è un film visivamente davvero straordinario. In America quando è uscito hanno scritto "Immaginate Carrie girato da Ingmar Bergman", che è, secondo me, una frase veramente che colpisce subito l'immaginario, perché ecco, immaginare un horror classico, però girato con uno stile scandinavo, anche di scavo interiore, di resa psicologica, dà un po' la chiave per leggere il film al meglio. Sì. Stefano, come è stato intercettato il film? A Il film noi l'abbiamo visto a Toronto, al Festival di Toronto. Toronto, dove è stato presentato in anteprima mondiale. Il Ok. film ha fatto anche molti altri festival, ha vinto premi dappertutto. Il regista Joachim Trier, peraltro, era a Cannes 2 anni fa in concorso con Segreti di Famiglia. Lui è stato anche a Cannes quest'anno, però come presidente di giuria della Semaine de la Critique. È un regista giovane, molto brillante, oggi è considerato comunque uno dei più importanti registi scandinavi di oggi, insieme forse a Ruben Östlund, che è un altro regista della Scuderia Teodora, che ha appena vinto la Palma d'Oro con The Square. E quindi no, è un regista assolutamente da tenere d'occhio, che peraltro è del suo primo film di questo genere, perché diciamo il suo percorso precedente era un percorso più standard come cinema autoriale. Invece qui c'è veramente un omaggio al cinema giallo-italiano classico, a Hitchcock, a Stephen King, a Cronenberg. Quindi è un film molto cinefilo, però anche con una via sua molto originale, ecco, e mai derivativo. Quali sono, secondo te, gli elementi, oltre a quelli che chiaramente che hai elencato adesso, di maggior pregio di quest'opera? Personalmente mi colpisce molto il modo in cui mette in scena e fa vedere attraverso il cinema essenzialmente tutte le dinamiche psichiche della protagonista, che insomma, è una bella scommessa ed è riuscita anche grazie alla fotografia e al lavoro sull'immagine e sul suono, che è veramente straordinario. Sì. Stefano, che riscontri ha avuto all'estero? No, all'estero è andato molto bene, ha avuto anche delle critiche eccellenti, difatti, e anche qui in Italia stiamo vedendo che piace molto e difatti veramente siamo speranzosi. È vero che il periodo, il 21 giugno dell'uscita, insomma, è già un periodo cui stiamo, insomma, per molti è quasi smobilitazione, però noi di Teodora abbiamo sempre puntato a fare una controprogrammazione estiva di qualità negli anni, ed è una cosa che ha ripagato, anche perché ci sono molte persone che continuano ad andare al cinema e continuano a voler vedere bei film. Che uscita sarà per Teodora? Diciamo un'uscita contenuta, ma non troppo. Usciremo in prima battuta con circa 30 copie in tutta Italia, nelle città capozona, e poi sperando, insomma, di avere una buona media copia, ci allargheremo. Bene. Allora, ricordiamo Thelma di Joachim Trier in uscita in sala il 21 giugno per Teodora Film. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Grazie a Finesi. voi, grazie Ciao mille. Stefano, un abbraccio. Un abbraccio anche a te, alla prossima.